Questo era l'urlo di 17 secondi di Chester Bennington, Rest in Peace Man. Oggi sono da solo, non ascoltate questa puntata perché faccio casino. La scuola fa schifo, la scuola fa schifo. Il tuo cazzo di voti, poi che cade nessuno, non c'è tanto nessuno, nessuno. Il lavoro fa schifo, il lavoro fa schifo. Frega un cazzo di soldi, frega un cazzo di soldi, non mi compro più niente, più niente. Lindy fa schifo, voglio fare il punk, voglio fare il punk, pa pa pa pa pa pa pa pa. La prima parte di questo programma sarà musicalmente monopolizzata da nove, una gran parte, e da una parte di nove canzoni che non ricordo di aver scritto, album pubblicato da Woodworm, dove il mastering engineer è Giuliano Pascoe, che mi sembra adatto per questa domenica. Auguri di buona Pascoe. C'è una parte di te ben nascosta tra le ruote delle macchine, tra le rotaie del tram. So che c'è una parte di te ben nascosta in quel viaggio che dovevi fare, monastero da visitare, in quel festival in Marocco dove volevi andare. So che ti nascondi lì, dentro un applauso nelle sere d'agosto. So che ancora tu ci sei. So che c'è una parte di te che non vuol dire mai di no, che vorrebbe ballare, vorrebbe soltanto ballare, che ti chiama, grida forte, ti ricorda chi sei. So che c'è una parte di te ancora ben nascosta, che ancora vive, che si ribella, che ha visto giorni migliori e che ti vuole salvare. Oh, so che ti nascondi lì, l'altro dentro gli smartphone. So che ancora tu ci sei. Tornato il fresco, gli ebrei sono liberi dalla schiavitù in Egitto, la Magnolia Officinalis spiega le sue foglie, Gesù è risorto, è cessato il profondo patimento, ovvero la Pasqua. Si intravedono le prime fragole, i pomodori, le albicocche, le pesche che fanno capolino dai fiori ormai secchi. È la primavera, tutti gli effetti sono i primi raccolti di orzo, da mangiare non fermentato, non lievitato. La libertà ha trionfato sulla coercizione, la vita ha trionfato sulla morte, allora come dicono la volpe e la merda, vivi. Ho visto un gabbiano, mi ha detto vola via da qui, sali sulle ali, non aver paura, tieniti forte che ora parto, sento allora. Ho visto una volpe dentro il bosco che correva, mi ha detto scappa. Manzo oggi non c'è, come metà del mondo starà probabilmente grigliando, voi se avete visto Seaspiracy si starete certamente grigliando pesce per dimostrare a voi stessi che non riuscirà un documentario a frenare i vostri impulsi di libertà consumistica, che quello che volete lo potete scegliere ed ottenere, basta che faccia parte di un menù o che qualcuno provveda a farvelo avere perché voi siete libero. Volevo comandare, ma poi ho perso tutto. Volevo il mondo, ma mi son perso. Volevo una vita normale, ma non c'è mai. Dai più peso a quel che vuoi. Immagine di chi l'ha immaginata, chi l'ha vista per me. Non so più cosa voglio, non so più perché lo voglio. Posso solo scegliere cosa comprare. Scegliere tra canale 1, Sky 1, Sky 2, Sky 3, Rai Cinema di Max, tra la Seat, tra la Volvo, la Golf, tra il Ferrari, la Lambo, tra il fumo e la coca, la chieta e la coca. Ora che sono finalmente libero, libero di scegliere cosa comprare.

we gonna burn down the cane fields. Dal 2018 la polizia si è digitalizzata con U-Poll e Red Button, che in effetti ricordano un pochino U-Porn e Red Tube, comode app che fanno esattamente lo stesso di una chiamata al 113, ma non dobbiamo più parlare con qualcuno, spiegarci e spiegare, ci basta premere il pulsante del reato in questione, come al supermercato sulla bilancia della frutta e verdura, e immediatamente uscirà lo scontrino con scritto Conversion, Software Version 7.0. You... What do you own the word? How do you own disorder? A quanto pare essere uno dei paesi più militarizzati al mondo non basta. Avere telecamere in ogni dove non basta. E domani, Dobbiamo così diventare tutti spie, gratis, alimentati solo dal nostro odio e astio verso gli altri, che sono sempre peggio di noi, senza chiederci perché ci sono così tanti organi di controllo e ciò nonostante il mondo va a rotoli, sempre più velocemente, senza chiederci perché la guerra alla droga viene combattuta per le strade e non alle dogane, in Parlamento e nelle case dei miliardari importatori, senza chiederci perché possiamo avere un passaporto vaccinale ma non possiamo quasi parlare di un passaporto del non me ne frega un cazzo di tutta questa storia, io sono per la selezione naturale, a fare in culo la modifica genetica, l'upload della coscienza online, i viaggi su Marte e la criogenesi, la lotta ad una sofferenza inevitabile, l'immortalità. Piuttosto lasciatemi la terra e insegnatemi a valorizzare per quello che sono gli istanti di vita che ci passo sopra. state ascoltando questo brano con un impianto non degno, mi dispiace, vi state perdendo un'immersione sonora degna dei Pink Floyd, Atom Heart Mother. Negli anni 20 i principali produttori mondiali di bulbi di lampadine si mettono d'accordo per non produrre bulbi longevi. Il complotto Phoebus, divinità della luce, uno dei primi esempi conosciuti di obsolescenza programmata su scala globale. Se non avete un buon impianto, anche un buon paio di cuffie possono bastare per una buona immersione musicale. Se il filamento brucia più spesso, i consumatori comprano bulbi ad un ritmo più soddisfacente per l'arricchimento delle aziende. L'obsolescenza programmata non è un concetto difficile. Sempre negli anni 20, soprattutto in America questa volta, assistiamo alla riduzione dei mezzi pubblici per lasciare spazio alle auto individuali con cui si fanno molti più soldi. Se ne vendono molto di più. Anni 30 però che c'è una rivoluzione sempre nella stessa direzione. Si inizia a vedere un modello di auto nuovo all'anno, così, dopo che quasi solo l'indistruttibile modello T Ford color nero, color unico, era stato venduto per anni, iniziano a comparire sul mercato auto diverse, di colori diversi, dalle carrozzerie diverse, che si rompono irreparabilmente, necessario acquistarle per utilità. O per distinguersi, l'America esce dalla Grande Depressione anche grazie all'obsolescenza programmata. Thank you. Abbiamo accennato nel primo incasinato episodio agli elementi del complotto, ma possiamo ribadirli ora mentre il profumo di carbone e di carne entra dalla finestra. La vittima, o le vittime, sono il primo elemento del complotto, ovviamente. I mandanti, che ci guadagnano, i secondi. Gli attuatori, che spesso non ci guadagnano e sono essi stessi vittime inconsapevoli. E la segretezza, spesso non si capisce nemmeno il perché di un complotto, e del resto, forse l'abbiamo già detto, se così non fosse ci sarebbe una rivolta al giorno. C'è un ultimo elemento, poco considerato, che ancora non abbiamo trattato. Non è Berlusconi, ma è Losco uguale. Qualcuno lo definisce il grande vecchio, il burattinaio che ha un fine tutto suo, ancora più misterioso, e al di sopra di tutti, anche di tutti i più potenti, che a loro volta sono vittime inconsapevoli di un complotto suo. Che brano mas complottistico che tenemos aquí. Il grande vecchio, padre di tutti i complotti, ce l'ha avuta con Gesù, ma anche con Bonatti. Il grande vecchio fa del complotto alpinistico un paradigma del complotto. We'll be right back. Ardito Desio, capo della spedizione italiana sul K2 1954, abituato ad una disciplina fascistizzante, se così possiamo definirla, per la gloria, per la fama, l'onore della patria, del governo, dell'epoca, decide che saranno Compagnoni e Lacedelli, due monumenti predestinati, a conquistare per l'Italia la vetta della montagna più pericolosa del mondo. Bonatti, 24enne fortissimo ma sconosciuto, è un'ottima vittima sacrificale, rischia la vita bivaccando a 8100 metri, a meno 50 gradi durante una tempesta, insieme a Madi, portatore Sherpa, per portare le bombole di ossigeno essenziali per l'impresa dei due monumenti predestinati. Morale, a lui non viene praticamente concesso di salire in vetta. Non solo, non gli viene riconosciuto nulla su giornali, film e stampa dell'epoca, e addirittura lo si accusa di aver usato troppo ossigeno. Dopo più di 40 anni, accuse, processi e con la morte di Desio, la storia ufficiale viene pubblicata e viene fatta giustizia per Donatti. Bonatti. Di Gesù, invece, non parleremo. Basta, voglio grigliare, sparare a droni, indugiare in comportamenti promiscui, leggere alcune questioni di filosofia morale di Hannah Arendt. E quindi vi lascio un'altra traccia, Bleed It Out. We'll be right back. 100 times. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show. Choppy words in a sloppy flow. Shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Half the words don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make your dirt dance flow again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. I've opened up these scars. I'll make you face us. I pulled myself so far. I'll make you face us. No! I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. Un altro grazie a Chester Bennington e a 9 per l'Indie fa schifo, Lettera ad un amico, Gabbiano, Libero e l'ultima che avete sentito poco fa, Bonatti. Un giorno parleremo di tabacco, monopolio di Stato, alcol, monopolio di Stato e di tanto altro. Per oggi invece è tutto e vi abbandono senza aggiungere altre parole dopo queste poche, con quelle piccole cose che vi tradiscono. Generation.